che fosse amore da un po', era scontato in partenza, non innamorarsi così, da non poter fare senza, il posto mio non è qui, sono arrivato in ritardo, lui ti rivuole con sé, va e non voltare lo sguardo. Io seguirò il mio cammino, tu seguirai il tuo cammino, e pensare che ho fatto di tutto per tenerti vicino. Io seguirò il mio cammino, tu seguirai il tuo cammino, e pensare che ho fatto di tutto per tenerti vicino. Ma c'è una cosa che so di non averti mai detto, solo e soltanto con te sono un amante perfetto, come un attore che sa entrare e uscire di scena, restare un attimo in più, sai, non ne vale la pena. Io seguirò il mio cammino, tu seguirai il tuo cammino, e pensare che ho fatto di tutto per tenerti vicino. Io seguirò il mio cammino, tu seguirai il tuo cammino, e pensare che ho fatto di tutto per tenerti vicino. Io seguirò il mio cammino, tu seguirai il tuo cammino, e pensare che ho fatto di tutto per tenerti vicino. Io seguirò il mio cammino.